Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e cinque minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, notizie di nuovo in chiaro scuro, devo dire più in scuro che in chiaro, dagli Stati Uniti, e le borse ne prendono atto con cali che adesso si fanno anche abbastanza consistenti. Perde il 2% Milano, l'1,90 Parigi, l'1,70 Francoforte, l'1,60 Londra. 1,5% il calo dell'America. Che cosa è successo? Sono usciti un paio di indici dagli Stati Uniti che hanno raffreddato le ipotesi di un'America che ce la faccia a mantenere la ripresa e a irrobustire, se possibile, la ripresa. In realtà non solo la ripresa sembra debole, ma a questo punto iniziano ad aprirsi anche degli così delle crepe sulla sua intensità. Lo dico senza risultare, spero, troppo pessimista, perché l'indice Fed di Filadelfia, che ai più può anche non essere noto, ma è l'indice principale in America che monitora l'andamento dell'attività manifatturiera, delle industrie americane, ha fatto meno 7,7 contro il più 5,1 del mese di luglio. È il livello più basso dall'agosto del 2009 ed è molto molto inferiore alle attese degli analisti, che addirittura scommettevano in un più 7, non in un meno 7. Tra l'altro anche i sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono tornati a crescere. La richiesta di sussidi di disoccupazione in America è salita la scorsa settimana di 12.000 unità, un dato anche questo superiore alle attese. Si parla quindi di 500.000 di sussidi di disoccupazione contro attese sui 460.000. E allora, nonostante il mondo delle corporate, quindi dei grandi gruppi, continui a muoversi, commenteremo infatti l'acquisto da parte del colosso informatico Intel di McAfee per praticamente 7 miliardi e 700 milioni di dollari, e anche le varie operazioni che in questi giorni stanno avvenendo, dicevo, gli indicatori dell'attività complessiva economica americana non sono belli. Le borse, ripeto, ne prendono atto. Adesso c'è anche un peggioramento proprio nel finale, meno 2,2%, perché l'America perde 1,5%. Tra i titoli, male soprattutto quelli che hanno l'attività anche in America. Penso ad Autogrill, che fattura metà del suo fatturato negli Stati Uniti, meno 3,5%, Luxottica meno 3,1%, anzi meno 3,2%, negativa anche Intesa San Paolo oggi, meno 3,3%, e anche gli altri bancari, UbiBanca meno 3,1%, Popolare Milano meno 3%, Monte dei Paschi meno 2,80%, Banco Popolare meno 2,5% come Mediobanca, Italcementi poi perde il 2,80%, Unicredito il 2,2%, e chiudiamo con chi perde più del 2%, ossia Exor meno 2,2% come Bulgari, e Fiat, ma anche Saipem e Telecom Italia perdono un 2,2%, e Mediolanum meno 2,1% come Buzzi, Unicem, Azimut e CIR. Chi perde di meno, perché oggi di titoli positivi tra quelli maggiori capitalizzazione non ce n'è nemmeno uno, chi perde di meno è Parmalat, meno 0,3% come Prismian, e anche Terna cede meno della media, meno 0,80% come Finmeccanica. Torneremo quindi a parlare, a raccontare le tappe di questa crisi. Ieri abbiamo dedicato buona parte del programma a un racconto, seguendo quello che sono le puntate che stanno uscendo su Sole 24 Ore, opera di quattro colleghi del Sole 24 Ore, sulle le varie fasi di questa crisi: quella prima finanziaria, bancaria e dei mutui, quella che poi ha portato invece ad aumentare il debito e il deficit degli stati, e conseguentemente anche vedere il blocco dell'attività manifatturiera e l'aumento della disoccupazione. La situazione attuale, in cui appunto gli stati hanno sottoscritto, e anche le stesse banche stanno finanziando i debiti degli stati comprando, le banche private, obbligazioni dei paesi, non solo quelli a rischio, ma obbligazioni in generale. Oggi ne parleremo col presidente dell'Istat, che in un'intervista a Wall Street Journal uscita ieri rivendicava l'importanza dei dati statistici e il fatto che questi dati potessero e avessero anche in alcuni casi permesso a chi li aveva saputi leggere di pronosticare la crisi e la bolla che si stava generando. Sarà anche un'occasione per ragionare sui dati futuri, sulla situazione attuale. La Germania resta il paese in questo momento su cui si aggrappano tutte le speranze europee. Ieri abbiamo commentato il dato OCSE che vedeva Gran Bretagna e Germania essere i due paesi trainanti, soprattutto la Germania. L'Italia è un po' più al palo, più 0,4% trimestre su trimestre, più 1,1 anno su anno. Oggi la banca centrale tedesca, la Bundesbank, ha alzato e di molto le stime sulla crescita tedesca nel 2010, ossia più 3% dopo l'espansione record che ha registrato la Germania nel secondo trimestre, più 3% contro un più 1,9% precedentemente stimato. Insomma, un 50% in più rispetto alle attese dovrebbe essere la crescita tedesca quest'anno. E la Bundesbank è anche ottimista sui possibili rischi di una recessione, di una nuova recessione in America. Dice che il rischio è molto molto basso. Tornano a crescere in Germania anche i prezzi della produzione, a significare appunto un buon andamento dell'attività manifatturiera. E buone notizie su questo fronte, cioè sul fronte europeo della produzione industriale, ma anche dei consumi, arrivano dalla Gran Bretagna. Le vendite, infatti, in Gran Bretagna sono cresciute a luglio quasi 4 volte in più di quanto previsto dagli analisti. È una solida ripresa nel settore non alimentare, praticamente il rialzo più forte dello scorso febbraio. E cala anche il fabbisogno del settore statale, quindi in Gran Bretagna sembrerebbero ripartire anche i consumi. Di questo ci occuperemo in apertura, poi la borsa vista la giornata e poi anche un caso che fa discutere, lo citeremo adesso nelle notizie in breve, l'invasione di pomodoro cinese. La Cina viene spesso indicata in questo periodo come la speranza mondiale, la maniglia a cui si aggrappano le speranze di ripresa a livello mondiale. Ogni tanto però è anche giusto ricordare che la Cina qualche problema lo crea anche a noi, oltre 200% l'aumento di pomodoro sotto forma di conserva che arriva dalla Cina in Italia ed è allarme tra gli agricoltori. 349-238-6666 per i vostri sms, le notizie in breve. Volete già il gufo? L'abbiamo usato anche ieri il gufo, insomma. Il gufo viene applicato a chi pronostica sciagure, non ai dati, che, diciamo, ai dati negativi, altrimenti in sto periodo sarebbe uno zoo, una voliera questo programma. Comunque andiamo col petrolio, meno 0,2% a $75 al barile, resta sostanzialmente stabile il pomodoro, il petrolio, diciamo, del pomodoro invece. Perché so chi viene da sorridere, ma insomma quasi il 300% in più di importazione di pomodoro dalla Cina negli ultimi 10 anni in Italia. Questa cosa è veramente assurda, perché noi siamo i produttori tra i maggiori produttori di pomodori e anche della qualità. Non ci possiamo lamentare. Quadruplicate praticamente le esportazioni di concentrato di pomodoro cinese in Italia. E tra l'altro queste importazioni starebbero mettendo in crisi, secondo quanto sostiene la Coldiretti, la coltivazione del vero pomodoro made in Italy, il cui raccolto quest'anno è in calo del 10%. Beh, vogliamo dedicare un piccolo approfondimento a questo, perché è uno di quei paradossi della globalizzazione per cui noi andiamo a buttare al macero i pomodori o a produrne meno perché importiamo il concentrato di pomodoro cinese per usi industriali ma anche nella ristorazione. Sempre nel settore agroalimentare c'è un nuovo capitolo nella guerra della bistecca, quella tra il colosso italiano Cremonini e il gruppo brasiliano JBS, che è socio di Cremonini nella joint venture Inalca JBS. In una nota, dopo varie indiscrezioni di stampa, la JBS ha detto di essere disponibile a valutare l'offerta avanzata dal gruppo Cremonini per acquisire il 50% che ancora non ha di questa joint venture. Quanto costa la burocrazia in Italia? Se ne è occupata oggi la Confartigianato col suo ufficio studi. E allora, la classifica vede un costo per le piccole e medie imprese italiane degli oneri burocratici che è pari a una manovra finanziaria ogni anno, 16 miliardi e mezzo di euro. Poi ci sono province in cui la pubblica amministrazione è più amica delle imprese e altre in cui è oggettivamente un freno. Mi riferisco a Ravenna, Reggio Emilia e Prato, le province in cui la pubblica amministrazione, secondo lo studio della Confartigianato, è più amica, cioè più vicina alle imprese, vuol dire che ci mette meno tempo per svolgere gli adempimenti burocratici, e facilita anche questi adempimenti. E dicevo invece, le province in cui è in cui si registra l'ambiente da un punto di vista della burocrazia più difficile per mettersi un'impresa si chiamano Catanzaro, Roma e Campobasso. Comunque si calcola che il costo medio per un'impresa degli oneri burocratici sia pari a 12.334 euro. La quota maggiore è a carico delle microimprese con meno di 10 dipendenti, il 76%. Insomma, è uno stipendio all'anno che se ne va, uno stipendio modesto per carità, ma che se ne va per gli oneri burocratici. Volete sapere anche del prezzo del grano? Adesso ve lo daremo. Oggi una dichiarazione del presidente Confagricoltura Vecchioni specifica che le scorte ci sono ed è ingiustificata la speculazione. Comunque torneremo, visto che parliamo anche del pomodoro. Ma a parlare del prezzo del grano, complici gli incendi e la torrida estate in Russia, restiamo invece sull'Italia, perché da oggi, con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, è operativo il fondo di solidarietà per i mutui relativi alla prima casa, cioè quello che permette alle famiglie in difficoltà di sospendere il pagamento delle rate del mutuo per un periodo fino a 18 mesi grazie alla copertura delle spese per lo spostamento del mutuo. Sostanzialmente, praticamente, vi sarà una società apposita attraverso cui sarà possibile provvedere al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui stessi, perché il passaggio prevede anche appunto un passaggio notarile e amministrativo con la banca. Il bonus ristrutturazioni, più 12% nei primi 7 mesi, oltre 288.000 le richieste di detrazione fiscale del 36% pervenute all'Agenzia delle Entrate. E le migliori performance si registrano in Veneto, più 17%, e in Calabria, più 14%. Quattro province hanno ristrutturato ben il 30% in più rispetto al 2009, Vibo Valentia, Prato, Livorno e Padova. E poi Basilea 3, non è un argomento così interessante, ma sono le nuove regole che verranno applicate alle banche per decidere, regolamentare come le banche possono concedere prestiti, che caratteristiche devono avere i soggetti a cui vengono concessi questi prestiti, come vengono le nuove regole anche contabili per le banche. Allora, il Comitato di Basilea ha proposto di introdurre il principio che tutto il capitale delle banche deve farsi carico di assorbire le perdite di un istituto di credito che si trovi sull'orlo del fallimento. L'intero capitale quindi deve essere esposto a eventuali perdite. E quelle vere, sostiene oggi Corrado Passera in un'intervista al Corriere della Sera, Corrado Passera è il numero 1 di Intesa San Paolo, dice in questa intervista: le banche vere non temono le regole, anzi le sollecitano. Allora, dicevamo della Gran Bretagna e della Germania, soprattutto la Germania è il vero driver, come dicono quelli che hanno studiato, la vera guida di questa ripresa. Devo dire che se in Gran Bretagna tornano a crescere anche i consumi privati non alimentari, torna a assumere la City, e quindi il cuore finanziario dell'Europa è uno dei tre centri a livello mondiale. È aumentato infatti il numero di assunzioni nel settore finanziario a luglio, sia su base mensile che su base annuale. L'aumento degli occupati nel settore finanziario nella City, però, va di pari passo con un calo dei salari. In generale le guadagnano il 3% in meno i neoassunti di luglio rispetto a chi è stato assunto a giugno. E quindi vuol dire che insomma anche la finanza nei salari, perlomeno di neoassunti, si sta dando una regolata. Chissà come va invece per i manager e i loro bonus. Ma nel mese di luglio nel settore finanziario a Londra si sono creati 6.000 posti di lavoro, 7% in più rispetto a giugno, ma soprattutto il 71% come nuovi posti di lavoro rispetto a luglio del 2009. per quello che riguarda l'elemento di ottimismo, non arriva solo dalla Gran Bretagna, ma anche e soprattutto oggi dalla Bundesbank, la banca centrale tedesca, che ha detto: rivediamo le prospettive di crescita, la Germania crescerà di quasi un 50% in più rispetto alle attese. 349-238-6666 per i vostri sms, questo è il primo tema. Allora, non lo do il gufo oggi, inutile che continuate a chiederlo, non c'è una gufata, diciamo, in nessuna dichiarazione, ci sono dati non belli dagli Stati Uniti. Attenzione a inflazionare il gufo. Invece ci colleghiamo subito con Andrea Malan, che è inviato da Sole 24 Ore a Francoforte. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Allora, la Germania è la nostra Cina. A livello europeo, tutto il mondo si aggrappa alla Cina per esportare e l'Europa si aggrappa, nel caso specifico ancora di più l'Italia, si aggrappa alla Germania nella speranza appunto che la ripresa tedesca contamini anche noi. La Germania è il primo paese per esportazioni, per l'export italiano in assoluto. Oggi la Bundesbank ha alzato le stime della crescita tedesca al 3% nel 2010 contro un precedente 1,9%, un 50% in più. Corrono i prezzi della produzione, ci racconti che cosa sta trainando in maniera anche superiore alle stime della banca centrale tedesca la ripresa di Berlino? Sì, beh, diciamo che questo aumento delle stime al 3% è in qualche misura un atto dovuto, dopo che la settimana scorsa i dati sulla crescita del prodotto interno lordo nel secondo trimestre avevano segnato un più 2,2% sui tre mesi precedenti, quindi un balzo consistente, quasi, appunto, per ricordare la Cina che hai citato tu, quasi a livelli cinesi su base annua. Quindi adeguare la crescita al 3%, anche, diciamo che se anche da qui alla fine dell'anno l'economia tedesca risultasse stagnante, il 3% è già quasi tutto in carniera. E siccome quindi questo non avverrà, è probabile che la stima sia anche, che alla fine il dato sia anche più alto. Beh, il punto di domanda è su cosa succederà nei prossimi mesi. La Bundesbank scrive che il movimento verso l'alto dovrebbe proseguire, sia pure a un ritmo eventualmente rallentato, e un altro elemento positivo è che il rallentamento previsto nella congiuntura internazionale, quindi nelle esportazioni tedesche, dovrebbe essere compensato in qualche modo da una maggiore dinamica degli investimenti interni, che sono stati un po' uno degli elementi carenti finora insieme alla domanda interna di consumo. Quindi da questo punto di vista, ricollegandoci a quanto dicevi tu prima, una notizia positiva anche per l'economia italiana, se effettivamente questa previsione della Bundesbank dovesse rivelarsi azzeccata. Naturalmente, come accade di solito, anche oggi i mercati hanno guardato molto di più agli Stati Uniti che non ai dati tedeschi, e quindi anche in Germania i mercati azionari sono in calo, ma questa, diciamo, è un'altra storia. I mercati guardano sempre avanti e cercano di interpretare a modo loro le previsioni sui prossimi mesi. Su questo abbiamo visto anche qualche intanto vorrei, giustamente gli ascoltatori mi fanno notare che vogliono maggiori informazioni sul perché di questa ripresa. Allora, visto che non è che sia ripartita la domanda interna in Germania, non ancora, non in maniera forte, è tutta una ripresa dovuta all'export. Su quali mercati e in quale modo? Perché abbiamo molto letto in questi giorni anche della capacità che ha avuto il cancelliere Angela Merkel di andare a vendere il Made in Germany in giro per il mondo. Sicuramente la Germania, avendo grandi imprese, ha più facilità nell'andare sui mercati lontani, nelle reti lunghe, e anche imporre, in senso positivo, insomma, i propri prodotti. Beh, le grandi imprese sicuramente firmano grandi contratti, e da questo punto di vista il ruolo di sostegno alla politica è importante. Anche però imprese che vendono beni di consumo sono state in grado di muoversi molto bene. Cito uno dei casi più noti, che è quello dell'industria dell'auto. Le grandi aziende tedesche, dalla Audi alla Mercedes alla BMW, hanno ormai nella Cina uno dei mercati principali. È stato calcolato che il forte aumento delle vendite che hanno avuto nella prima metà di quest'anno rispetto all'anno scorso è dovuto per il 50% all'aumento di vendite in Cina. Quindi questo dà l'idea di quanto sia divenuto importante un mercato come la Cina. Poi ci sono anche altri mercati emergenti che hanno avuto una dinamica significativa, e dall'altra parte, per dire quanto pesa l'export sull'economia tedesca, si calcola che circa un terzo del PIL tedesco sia in qualche modo legato all'export. I tedeschi esportano qualcosa come $13,000 l'anno pro capite, più del doppio, se non ricordo male, rispetto all'Italia, sì. Enormemente più di quanto non faccia la stessa Cina, così tanto temuta per le sue esportazioni. Proprio per questo, appunto, le prospettive per i prossimi 6 mesi, come sottolinea la Bundesbank stessa, sono anche legate a come si evolverà la congiuntura, da un lato in Cina e negli altri mercati emergenti, dall'altro negli Stati Uniti. Sì, sugli Stati Uniti oggi, come ricordavamo, è arrivata la doccia fredda dell'indice Fed e stanno peggiorando anche le borse. L'America perde l'1,4%, Francoforte meno 1,7%, Milano meno 2,1%. I timori sono di un rallentamento nella ripresa tedesca, anche se oggi ho letto appunto che la Bundesbank, la banca centrale tedesca, della ripresa americana, anche se oggi ho letto che secondo la banca centrale tedesca non c'è il rischio è molto basso di una nuova recessione negli Stati Uniti. Più Cina o più America per quello che riguarda l'export tedesco, Andrea? In termini differenziali sicuramente più Cina, cioè la Cina è quella che dà le cosiddette esportazioni marginali, cioè quelle in più che vanno ad aggiungersi. Anche comunque una ripresa americana sicuramente dovrebbe contribuire, così come peraltro anche l'eventuale ripresa di altre economie europee, che invece finora è stata molto più in ritardo rispetto a quella tedesca. Comunque è anche fondamentale che in Germania la domanda interna si riavvii, ma d'altra parte è un sentiero abbastanza delicato da percorrere, perché come sappiamo anche la Germania, così come gli altri paesi europei, anche se meno, è indebitata. Il governo di Angela Merkel sta molto attento a dosare gli eventuali stimoli alla domanda, sì, per non peggiorare la situazione dei conti pubblici. Subito dopo che sono usciti i dati sul PIL la settimana scorsa, molti sono corsi a chiedere una ripartizione di questo, diciamo, tra virgolette, dividendo della crescita, ma il governo ha subito avvertito che il primo compito è quello di ridurre il deficit pubblico. Quindi diciamo che la Germania da questo punto di vista mantiene la sua tradizionale sobrietà e la sua tradizionale prudenza, quindi più che fare esplicitamente la locomotiva per il resto d'Europa, per ora ha approfittato, diciamo, delle condizioni favorevoli in alcuni mercati mondiali per crescere le stesse. Ecco, tu citavi la Cina e nel ringraziare Andrea Malan in collegamento con noi da Francoforte, noi restiamo sul tema cinese per una cosa molto più limitata, che comunque riguarda l'export e riguarda anche il nostro export e la nostra produzione. Parliamo infatti di questo benedetto, secondo me, concentrato di pomodoro cinese, che insomma è quadruplicato quanto a esportazioni verso l'Italia. Cioè, la cosa incredibile è che noi abbiamo la produzione di pomodori in calo del 10%, non sappiamo cosa farci di pomodori di eccellente qualità, ma abbiamo importato 4 volte in più negli ultimi 10 anni il concentrato di pomodoro dalla Cina in Italia, praticamente 100 milioni di chili, pari al 15% dell'intera produzione di pomodoro fresco in Italia. E pensate che ogni italiano, dei 31 chili di pomodori trasformati che consuma, 3 di questi chili sono di concentrato, per cui buona parte è anche cinese. Lo dico perché molti dicono: ma chi lo usa questo pomodoro? E allora cerchiamo di capire come riusciamo a farci male anche nel pomodoro. 349-238-6666 per i vostri sms. Eh sì, perché non solo praticamente 3 prodotti alimentari su 4 in giro per il mondo sono falso made in Italy, quelli che Italian sounding, sembrano italiani ma sono prodotti in Canada, in Brasile, in America. Praticamente 52 miliardi di euro, sono 3 volte quello che riusciamo a esportare come vero made in Italy, è il falso made in Italy. Ma noi riusciamo anche, cioè pensate che in America sono falso made in Italy 9 bottiglie di vino, cioè 5 bottiglie di vino su 10 e quasi 9 formaggi su 10, con danni poi per il nostro export pari a 100 miliardi di euro solo per quello che riguarda il falso made in Italy prodotto in Cina. Però qui siamo di fronte a un caso diverso, cioè il concentrato di pomodoro cinese che arriva in Italia non è necessariamente falso. Io voglio capire che cosa succede e lo chiedo al responsabile economico della Coldiretti, che oggi ha lanciato di nuovo l'allarme, Lorenzo Bazzana. Buonasera. Buonasera. Cioè, mi spiega banalmente com'è che noi abbiamo importato quasi il 300% in più negli ultimi anni di concentrato di pomodoro cinese, che significa, ripeto, 100 milioni di chili l'anno e quasi il 15% di tutta la produzione di pomodoro fresco. E poi sbarcano, secondo la vostra denuncia, fusti di oltre 200 kg di peso con concentrato da rilavorare e confezionare come italiano, perché nel luogo, se ho ben capito, nei contenitori al dettaglio è obbligatorio indicare solo il luogo di confezionamento. Quindi uno scrive Napoli o Bari o Milano, ma in realtà il concentrato arriva da Yangzhou, dal Guangdong, dalla Cina. È così? Sì, è così, e ovviamente non riguarda solo il pomodoro. Noi stiamo il pomodoro, ma purtroppo è un problema che riguarda tante altre produzioni. Diciamo che in questo momento noi stiamo prendendo atto di quella che è la crescita in questi ultimi anni, che però ha una ricaduta importante anche su quello che sta avvenendo in campagna, nel senso che è in fase di raccolta il pomodoro in questo periodo e ci sono purtroppo dei soggetti trasformatori, degli industriali, che sfruttando il fatto di poter avere comunque questa importazione dalla Cina come elemento a cui fare ricorso, stanno infrangendo quelli che erano gli accordi contrattuali, non rispettando i prezzi pattuiti e sottopagando quello che è il pomodoro che attualmente viene raccolto soprattutto nel meridione. Allora, primo danno che noi andremo a raccogliere 10% in meno, se ho ben capito, quest'anno. Sì, è chiaro che la campagna, essendo all'aria aperta, diciamo così, deve sempre soggiacere a quelli che sono gli andamenti stagionali. L'andamento stagionale, soprattutto nella fase dei trapianti, non è stato dei più favorevoli e quindi abbiamo una previsione di campagna che ci porta a un meno 10, meno 15% come raccolto rispetto all'anno precedente. No, mi scusi, però noi produrremo di meno perché abbiamo avuto problemi noi meteorologici o perché ci fa concorrenza il concentrato cinese? Cioè, voglio capire, queste importazioni arrivano perché sono necessarie? No, noi produciamo di meno perché l'andamento climatico è quello che si diceva. Dopodiché c'è un altro problema, che è quello delle importazioni. Rispetto al programmato noi produrremo 10-15% in meno. È chiaro che se non ci fosse un flusso di 100 milioni di chilogrammi di concentrato triplo che arriva dalla Cina, la necessità dell'industria italiana sarebbe molto più elevata e ne dovremmo investire molto di più in termini di superfici. Quello che è stato, diciamo così, programmato è stato programmato per poter fare un certo quantitativo che, ripeto, rispetto all'obiettivo sarà almeno 10-15%. Senta, lei parla di concentrato triplo. Scrivono gli ascoltatori al 349-238-6666, praticamente le pizze, tutte le pizze surgelate hanno il concentrato di pomodoro cinese. Cioè, dove viene usato questo concentrato? Allora, perché voi denunciate anche il fatto che venga appunto ritrasformato e fatto passare per italiano, che è proprio il massimo. Allora, ovviamente in Italia arriva concentrato triplo perché è quello che ha il minor contenuto di acqua, quindi in sostanza nella fase di lavorazione in Cina viene tolta l'acqua in modo tale da poter trasportare la materia, diciamo, che vale di più, che è in sostanza la sostanza secca, che poi viene reidratata, cioè viene riaggiunta l'acqua quando arriva in Italia. A quel punto è chiaro che poi viene utilizzato per tutta una serie di destinazioni, tra cui ci possono appunto essere anche quelle delle pizze. Ma dove? Perché vorrei capire anche, voi avete anche i nomi di chi lo usa? Ma i nomi di chi li usa non sono nomi, diciamo, disponibili, perché purtroppo la normativa prevede che non possa essere reso pubblico chi importa appunto questi prodotti per un fatto di privacy. Noi crediamo invece che questi dovrebbero essere dati che vengono divulgati, così come dovrebbe essere divulgato chi ad esempio porta semilavorati caseinati per fare le mozzarelle, in modo tale che il consumatore si sappia poi regolare di merito, ovvero sia se le mozzarelle sono fatte con latte fresco o se la passata di pomodoro o se i derivati del pomodoro sono fatti col pomodoro fresco, evidentemente questo ha un valore diverso. Sì, era curioso anche di sapere se voi avete individuato dei settori di sbocco classici su questo, perché forse più l'industria, non so, chiedo, non ho veramente idea. No, è chiaro che è un discorso industriale, nel senso che chi acquista un semilavorato è un industriale che poi lo utilizza per rifinire o per tagliare altri prodotti che vengono realizzati in toto o in parte con questo semilavorato. Mm-hmm. Vabbè, speriamo che abbiate anche indicazioni più precise su questo e poi che si chieda. Ma, ripeto, anche... le indicazioni più precise esistono, nel senso che le dogane hanno i termini di importazione di tutti questi prodotti. E purtroppo sono termini di importazione che non si possono divulgare perché sono segretati in quanto rientrano nella sfera della privacy. Noi chiediamo che questi dati invece siano... Sì, diciamo, l'unica soluzione mi sembra l'obbligo nell'etichettatura di dire se è stato usato pomodoro concentrato o no. Vabbè, ci piaceva, adesso parliamo di borsa, c'è un ascoltatore che scrive: ma chi se ne fotte del pomodoro, dacci la borsa che poi spengo la radio. Ed è per questo che io sto aspettando dalla borsa, così lei spegne la radio più tardi. Adesso invece ringrazio il responsabile economico della Coldiretti, Lorenzo Bazzana, da questa vicenda, grazie ancora, da questa vicenda obiettivamente assurda, perché è assurda, 100 milioni di chili di pomodoro cinese importati ogni anno per essere poi spacciati per il pomodoro italiano. Adesso ci concentriamo sul meteo, la pubblicità, breve oggi, e poi la borsa che ha chiuso con un meno 2%, così poi anche l'ascoltatore può agevolmente spegnere la radio. Ci risentiamo tra due minuti. ...17:37 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, sulla sicurezza dei pomodori cinesi, allora, tutto vogliamo tranne che creare allarmismo. È chiaro che se poi viene riutilizzato e non ci sono mai stati casi di problemi, questo pomodoro è sicuro. Il problema non era la sicurezza, non è un pomodoro contraffatto nel senso che fa male, è l'assurdo di dover importare 100 milioni di chili di pomodori concentrati in un paese che da sempre è il più grande produttore di pomodoro e anche della migliore qualità. Livia Zancanera, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Nemmeno tu lo sapevi che usi concentrato di pomodoro cinese molte volte? No, assolutamente no. Non lo sapevi, non che no. Non lo usi. Vabbè, con te parliamo della borsa. Brutta oggi la giornata, dopo i dati americani che abbiamo ricordato, l'indice Fed di Filadelfia che misura l'attività manifatturiera cala molto più delle attese, allora borsa sia. Meno 2% Milano, meno 2,07% Parigi, meno 1,80% Francoforte, meno 1,60% Londra, meno 1,66% il Dow Jones. Non mi sembra che vi siano altri motivi, Livia, ma da te, come dai colleghi del Corso 24 Ore, adoro essere anche smentito. Invece sui titoli mi sembra chiaro che l'America pesi: Autogrill 50% del fatturato negli Stati Uniti, meno 3,5%, Luxottica, secondo peggior titolo, meno 3,1%. Livia. Infatti, però bisogna dire che sono stati comunque, come dicevi tu, i dati americani negativi a far invertire la rotta alle borse, che invece a metà seduta viaggiavano in territorio positivo grazie ad alcune notizie arrivate sul fronte europeo, come il rialzo delle stime da parte della crescita tedesca da parte della Bundesbank. Per quanto riguarda infatti Autogrill e Luxottica, sono state le peggiori del paniere principale. Non ci sono notizie particolari sulla società, se non appunto il peso della componente americana sui due gruppi. Bisogna sottolineare inoltre che è stata una giornata anche abbastanza nervosa sul mercato dei cambi, che sostanzialmente però poi ha chiuso in linea alla chiusura di ieri sera. E infatti, come tu ricordavi, oggi male tutti i titoli che sono legati all'export, ma male anche i bancari. Qui mi è un po' più difficile la spiegazione, ammesso che vi sia. UbiBanca meno 3, Intesa San Paolo meno 3, come Popolare di Milano, Fondeiria Sai meno 2,80, Banco Popolare meno 2,70%. Ancora Monte dei Paschi meno 2,5, Unicredito perché non lo trovo, ma eccolo qua, meno 2,1% come Azimut. Livia. Sì, allora, spiegazioni in linea di massima sul settore non ce ne sono. Il comparto europeo ha chiuso in ribasso dell'1,8% e comunque sostanzialmente quasi tutti i settori hanno chiuso in linea con la perdita quindi dei listini, fatta eccezione per il settore costruzioni che ha perso di più, quindi meno 2,6%, e per il settore tecnologico che invece ha perso meno, ma sostanzialmente quando vi sono dubbi sulla ripresa economica e vi sono dati macro non positivi, a risentirne in particolare anche il comparto bancario. Allora, andiamo avanti invece su altri titoli, abbiamo detto dei bancari, male anche Telecom Italia, meno 2,2%, devo dire Italcementi meno 2,6%, Geox meno 2,6% come Pirelli e anche Exor che perde il 2,3% come Impregilo ed Enel. Infine Fiat meno 2,1 come Bulgari e CIR, media 7-2% come Unipol e Saipem, l'Eni perde l'1,90 come Buzzi, Unicem e le Generali, Mediolanum meno 1,70 come Steamicroelectronics e Atlantia, A2A e Campari meno 1,50, Tenaris meno 1,20. Migliori e peggiori in assoluto. Dunque, Isagro più 14,70, Grandi Finandre più 11,60, Olidata più 9,5, BMW più 7,90, Banca Popolare dell'Etruria più 4,95, peggiore Intech meno 5,80, poi L'Oreal meno 5,30, Stefanel meno 5%. Esagro, da un lato, perché obiettivamente il titolo è Isagro ha fatto più quasi il 15%, se hai anche notizie della Banca Popolare dell'Etruria che interessa molto alcuni ascoltatori. Sì, allora, per quanto riguarda la Banca Popolare dell'Etruria, in realtà non vi sono assolutamente notizie visto che ha viaggiato anche in controtendenza rispetto al settore bancario, bisogna dire che è da una serie di sedute che le azioni sono in rialzo, in particolare dalla chiusura del 13-16 agosto. Quindi probabilmente, non so se si può, in assenza di notizie ufficiali, potrebbero trattarsi delle solite speculazioni estive, ma in realtà non vi sono novità. Per quanto riguarda Isagro, invece, è il settore che è sotto i riflettori in questo periodo, sulla scia della battaglia da parte di BHP per conquistare il gruppo canadese Potash. Infatti BHP, dopo aver ricevuto un rifiuto da parte del CDA di Potash alla proposta di acquisto a 38,6 miliardi di dollari per appunto acquistare la società, ha deciso di lanciare un'offerta ostile direttamente agli azionisti che però non sembrano particolarmente convinti dell'offerta lanciata dal colosso canadese, offerta che comunque ha riacceso i riflettori su un settore che forse era stato dimenticato nell'ultimo periodo dal mercato. Sì, poi del settore costruzione cementifero tu hai già detto, insomma, i dati della tedesca Holcim erano sotto le attese. Allora, scrive un ascoltatore: ho lavorato per anni in una compagnia marittima, una delle maggiori del mondo, con agenzia a Napoli, importavo concentrato di pomodoro dal Far East, all'Estremo Oriente, dagli inizi degli anni 90, il 95% finiva ai produttori di conserve in tutto il sud Italia. Ecco, spiegato il marchingegno, e tra l'altro alcuni lamentano che la privacy si debba usare per l'utilizzo del concentrato di pomodoro. Come vedi, l'argomento prende, anche tu sei avvisata, Livia. Buon lavoro, buona serata. Grazie. Grazie a te. Traffico, e poi parliamo non di pomodoro, ma di dati economici con il presidente dell'Istat. L'importanza dei dati, la capacità di prevedere la crisi, ma anche la situazione attuale. 349-238-6666 per i vostri sms. E allora, torniamo a parlare di economia, macroeconomia, proprio dai segnali incoraggianti che arrivano dalla Germania, il dato di oggi con cui abbiamo aperto il programma. Riprendiamo anche il racconto che avevamo interrotto ieri sulle fasi di questa crisi, racconto che abbiamo seguito con i colleghi che ne stanno scrivendo del Sole 24 Ore, e le sue conseguenze anche a due anni, ormai due anni sono, dallo scoppio più forte della bolla, al tempo bolla dei mutui subprime. Eh sì, perché ieri, insomma, tra le varie cose che sono emerse in questa ricostruzione molto bella, devo dire, grazie ai colleghi del Sole 24 Ore, delle varie fasi di questa crisi, dopo la quale, come molti hanno detto, nulla sarà più come prima, beh, emergeva un dato su tutti, ossia l'incapacità che hanno avuto i governanti, a partire dal presidente americano dell'ora Bush, i numeri uno delle banche centrali, mi riferisco a Greenspan, ma anche a Trichet in Europa, e anche alcuni ministri, uno su tutti il ministro americano all'economia Paulson, dicevo, l'incapacità di leggere quello che stava accadendo, di avere le avvisaglie di quello che stava accadendo. A avvisaglie che per carità forse non ci avrebbero salvato da quello che poi è successo, ma insomma molti di voi ci hanno scritto al 349-238-6666, poi anche via mail, ma è mai possibile che dopo quello che era accaduto nel 2007, quindi i problemi forti su Bear Stearns, le difficoltà da salvataggio su Home American Home Depository, insomma, che nessuno avesse preso così seriamente la considerazione. Facciamoli sentire quel Bush che già ieri abbiamo andato in onda, che è un Bush, pensate, di inizio settembre 2008, a pochissimi giorni dal crack di Lehman Brothers, ancora ostenta fiducia, ed è anche su quel Bush che molti di voi si sono accaniti. I know Americans are concerned about the adjustments. Sono consapevole che gli americani sono preoccupati a causa degli aggiustamenti a cui stiamo assistendo sui mercati finanziari. La Casa Bianca, con la mia amministrazione, si sta concentrando sugli attuali eventi. Stiamo lavorando per ridurre le turbolenze sui mercati e minimizzare l'impatto di questi sviluppi sull'intera economia. Sono stato in stretto contatto con il segretario al Tesoro Paulson per tutto il weekend. Ho apprezzato il lavoro svolto dal Tesoro, dalla Federal Reserve, dalla SEC e dalle maggiori istituzioni finanziarie, sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo, nel promuovere la stabilità del sistema finanziario. Nel breve termine, gli aggiustamenti sui mercati finanziari possono essere dolorosi, sia per le persone preoccupate per i loro investimenti che per i dipendenti di alcune società. Nel lungo termine, sono convinto che i nostri mercati finanziari siano flessibili e robusti e che possano adattarsi a questi aggiustamenti. Flessibili e robusti, così non è stato. Gli aggiustamenti che Bush immaginava si sono chiamati crack, crisi, crollo dei corsi azionari, aumento strepitoso del deficit, dei deficit dei vari paesi, dei debiti dei vari paesi, disoccupazione a record, economia impicchiata, insomma un bollettino di guerra, altro che aggiustamenti. E lo dico perché su Wall Street Journal di ieri, sempre in tema, c'è chi ha scritto e detto: attenzione, non è vero che non vi fossero i numeri per questa crisi. I numeri sulla crisi e su quello che stava capitando c'erano, andavano letti, tant'è che chi è stato in grado di leggerli la crisi l'ha anche predetta. Siccome la crisi è stata da alcuni predetta, Rogoff, Rubini, ma non solo, altri grandi economisti l'avevano fatto, si può dire che i dati c'erano. È chiaro che anche il riferimento va a Paul Krugman e a Stiglitz, però insomma l'articolo sul Wall Street Journal è a firma di Enrico Giovannini, che tra le altre cose è anche il presidente dell'Istat, dell'Istituto Nazionale di Statistica Italiano. Presidente Giovannini, buonasera. Buonasera. Allora, lei sa che nella vita è sempre fastidioso dire ma i numeri c'erano, non li avete saputi leggere. In realtà, da quello che ho capito io, la sua era una difesa della validità anche delle statistiche, per cui se da un lato i bilanci delle banche, quando erano pieni di roba tossica, non potevano essere letti, perché se una banca scrive una cosa che poi non si rivela vera, questo è un problema, non è? Però lei dice: attenzione, la statistica forniva i numeri necessari. Vorrei che lei ci precisasse questo concetto, e visto che ne sembra convinto, perché secondo lei invece questi numeri non sono stati letti correttamente? Prima di entrare nel problema dei numeri, le cito cosa mi ha detto recentemente il presidente di una ex presidente di una grande banca italiana. Lui diceva che forse si porterà un giorno, nel giorno del giudizio, una colpa, quella di aver smantellato l'ufficio studi di quella banca, convinto che guardando ai prezzi delle azioni, delle obbligazioni e così via, si potesse in qualche modo capire tutto. Questo è stato uno degli errori che alcuni hanno commesso, cioè credere nella perfetta razionalità, nella perfetta trasparenza dei mercati, e quindi immaginare che i prezzi incorporassero tutta l'informazione necessaria e quindi non si dovessero guardare i cosiddetti fondamentali. Perché se fossero guardati i fondamentali, avremmo visto che le famiglie americane in particolare, ma non solo, erano straordinariamente indebitate, il tasso di risparmio era a livelli bassissimi, addirittura negativo, la distribuzione del reddito stava peggiorando in 10 anni e quindi i più ricchi diventavano sempre più ricchi, i più poveri più poveri, e attraverso il debito riuscivano a tenere un livello di vita, di consumi adeguato agli standard di quel paese. Quindi in qualche modo si stava caricando uno squilibrio forte che veniva anche dai mercati reali, non soltanto da quelli finanziari. Ricordo anche che per molti mesi dopo lo scoppio della bolla si parlava di financial turmoil, cioè di turbolenza, perché Bush stesso dice una cosa simile: sì, ci sono preoccupazioni, aggiustamenti, ma insomma i mercati sono sani, il sistema ha gli anticorpi, poi si è invece scoperto che è stato sottoposto a chemioterapia brutale. D'altra parte bisogna anche pensare in questi termini: supponiamo che tutti avessero in qualche modo compreso che la crisi stava arrivando, cosa si sarebbe dovuto fare? Probabilmente qualsiasi operazione fosse stata fatta avrebbe accelerato ulteriormente il processo, non lo avrebbe evitato. Questo potrebbe anche spiegare perché alcune parole ufficiali che sono state pronunciate in quelle settimane erano comunque di ottimismo, proprio perché forse, è solo un'ipotesi che alcuni hanno avanzato, se anche la crisi era prevedibile c'era poco da fare se non farla scoppiare. Allora, lei dice, insomma, che attenzione che i numeri c'erano. Tra l'altro, come curiosità, ma questo ex presidente di una grande banca italiana chi era? Salza? Beh, non lo posso dire. Vabbè. No, stavo andando a memoria. Comunque, c'era stato un eccesso di fiducia che il mercato fosse in grado di prezzare, come si dice in gergo, cioè di dare un prezzo al rischio, di arrivare attraverso una sua capacità intrinseca di valutare il rischio e quindi di, attraverso i prezzi che esprimeva per i prodotti finanziari, far capire quale fosse il rischio del prodotto. E quindi la missione di alcune banche, abbiamo sbagliato a smantellare tutti quegli uffici studi che servivano invece a analizzare i fondamentali di bilancio, i fondamentali macroeconomici, il tasso di risparmio, il tasso di indebitamento, il tasso di consumo, tutte queste piccole cose che poi però di solito sono i segnali, i sintomi di quando sta per scoppiare una grossa malattia. E questo, vabbè. Io però potrei avanzare un'altra ipotesi, Presidente Giovannini, che non si sia voluto leggere questi segnali perché, come dicono in francese, tu se tiens, finché tutto si tiene, tutti sono contenti, finché la musica suona sul Titanic si balla il valzer, e poi perché questo valzer prevedeva anche decine di milioni, addirittura miliardi di dollari di bonus, di stipendi, di vantaggi, di voli privati. Insomma, ricordiamo tutti cosa capitò ai manager di Bear Stearns che erano a giocare a bridge mentre scoppiava la crisi, quegli altri erano con i cellulari spenti nei AIG a giocare a golf alle Cayman, se vado a memoria, insomma decine di milioni di euro di budget spesi, insomma tutti danzavano e nessuno voleva dire attenzione, sta arrivando l'iceberg. Cioè forse c'era anche una volontà nel non vedere. Ma io non voglio entrare nei casi particolari di manager, però vorrei ricordare che un investitore che in quei mesi, in quegli anni, avesse accettato un investimento al 2-3%, sarebbe stato considerato un pazzo, quando invece c'erano possibilità di investire al 7-10-20% all'anno. Quindi l'euforia aveva preso non soltanto i manager, ma direi anche i risparmiatori che pretendevano dalle aziende di credito o degli altri operatori finanziari dei rendimenti fuori da quei trend di lungo periodo. Presidente, il pesce puzza dalla testa. Se iniziano i manager delle grandi banche ed affari a tranquillizzare, a dire che questi prodotti vanno e tutti vogliono vedere che tutto va bene, è chiaro che poi arriva anche il piccolo risparmiatore che dice io no. E io no. Naturalmente. Ed è per questo che proprio in quel periodo, io ero ancora all'Ocse a Parigi, ha preso forza questo progetto di financial education, cioè di in qualche modo uno dei corsi e dei modi per insegnare ai risparmiatori cosa è ragionevole e cosa non è ragionevole. Sì, però mi scusi anche qui la battuta, ma i primi a dover fare il corso di financial education dovrebbero essere proprio i manager delle banche d'affari, perché sempre a spiegare ai risparmiatori, poi scopriamo che questi hanno imbarcato decine di miliardi di prodotti tossici che non riescono più a controllare, che non sanno più quanto valgono, che sono carta straccia, che non si capisce più chi ce l'abbia in mano. Insomma, forse un bel corso di finanza e anche di prudente gestione andava fatto anche a loro. Ma questa sarebbe un'altra storia. Invece, visto che siamo agli ultimi minuti del programma, mi dice lei, come presidente dell'Istat, come vede la situazione attuale? Oggi il dato buono della Germania, meno buono dagli Stati Uniti, insomma, qual è l'intensità di questa ripresa e che rischi eventuali lei vede? Come dicevo prima, la forza della ripresa nel primo semestre del 2010 è stata discreta, non così forte come alcuni avevano sperato, ma neanche debole. Il commercio internazionale ha ripreso a crescere e da questo punto di vista quindi abbiamo visto tassi di crescita del prodotto interno lordo abbastanza significativi, ancorché insufficienti a riportarci rapidamente ai livelli anticrisi. In Europa in particolare la crescita sta accelerando, i dati tedeschi dell'ultimo trimestre, del secondo trimestre del 2010 sono particolarmente buoni, l'Italia sta crescendo a un tasso leggermente superiore all'1%. Da dove vengono le possibili preoccupazioni? Vengono dall'esaurirsi della forte spinta sulla domanda che è venuta dai dati e dalla, in generale dalla spesa pubblica. Molti governi hanno investito per trascinare l'economia fuori dal pantano della recessione e naturalmente non si può continuare a investire a quei tassi. L'altra preoccupazione nasce dal fatto che negli Stati Uniti e in altri paesi la crescita è stata trascinata molto dal commercio internazionale e non ha ancora preso vigore grazie alla domanda di consumo, i consumatori sono ancora molto guardinghi e gli investimenti a livelli di produzione molto inferiori a quelli antecrisi, i motivi per fare nuovi investimenti sono relativamente pochi. L'indicatore anticipante dell'OCSE, pubblicato proprio l'altro giorno, mostra a 6-7 mesi questo rischio di rallentamento. Non è un'altra crisi, non è un'altra recessione, ma è un rallentamento nella crescita. Grazie, speriamo appunto che sia solo un rallentamento e che duri anche poco. Grazie al presidente dell'Istat, Enrico Giovannini. Grazie a voi. Ed è veramente tutto, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, intanto da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.